Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Io dico la verità, so chi è Fedez e non so chi è Staverragni, quindi... Una fashion blogger. Una fashion blogger, la lascio ai suoi lettori. Io mi metto col tanto la mattina, ascolto Alessandro Milan dalle 6:30 alle 9, che è giusto il tempo che mi serve per fare colazione, lo dica anche lei, Milan, ma sì o no, sia sincero, Credo che la misura sia colma, sinceramente, quindi con molta tranquillità da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali e quindi saranno loro, se necessario, a fornire altri aggiornamenti. Sono assolutamente tranquillo sulle mie fonti, ho scritto una cosa, era giusto che si sapesse, credo che rappresenti una notizia visto che siete tutti qua. Nessuno più si fida. La sua la credibilità della signora Boschi, della signorina Boschi è zero. E io della Boschi non mi fido perché ricordo che disse fra le altre cose: se perdo il referendum cambio mestiere, ce l'abbiamo ancora in mezzo alle scatole. Dura poco. Chiederemo l'immediata calendarizzazione per dare via alla commissione dell'inchiesta sulle banche, in modo che potremmo audire Ghizzoni, potremmo audire l'ex ministro Boschi, potremmo anche audire un pericoloso rivoluzionario come Ferruccio De Porte. Ci siamo, signori, ci siamo! È ripartito il caso Boschi Etruria ormai in maniera ufficiale dopo questo libro scritto da Ferruccio De Bortoli, che a un certo punto racconta di pressioni, non di pressioni, di interessamento, questa è la parola giusta, interessamento da parte del ministro Boschi per la Banca Etruria, quella di cui il padre era vicepresidente, per l'acquisto di Banca Etruria da parte di Unicredit, l'interessamento di Unicredit su Banca Etruria. La Boschi ha smentito, De Bortoli dice: confermo tutto delle buone fonti e spero che l'annuncio di querela non rimanga solo un annuncio, come dire, ci vediamo in tribunale. E Ghizzoni, perché poi tutti dicono Ghizzoni, cioè l'ex amministratore delegato di Unicredit, colui che potrebbe dire è vero o non è vero, mettendo una parola, non dico tombale su questa vicenda, ma è Ghizzoni, sta in silenzio. E questo silenzio, almeno racconta i giornali, viene interpretato così: non smentisce. E allora è partito ovviamente il cancan sulla Boschi, si deve dimettere, non si deve dimettere, lei si dice sdegnata, e dimissioni, non dimissioni, e chi lo sa. Ho visto che alla Boschi fanno la mozione di sfiducia, siamo veramente alla barbarie, cioè come presentare la mozione di sfiducia alla Venere di Botticelli. De Luca, questa è una vicenda vecchia, quando ci fu una vecchia mozione di sfiducia per Mariella Boschi, ma De Luca vale bene su tutto e per sempre. E perlomeno la Boschi, salvaguardiamola in un paese triste, grigio, burocratico. diamole l'extraterritorialità, diciamo pulita. L'extraterritorialità, va bene, se lo dice Vincenzo De Luca, prossimo conduttore qua 4.0 di 24 mattino, va bene così. Signori, a Torino ci sono 12 gradi e ci fa sapere questa mamma che Agata poppa felice. Evviva! In tangenziale ovest a Milano ci sono 14 gradi. Saluti anche a Maurizio. Mentre a Cernusco sul Naviglio, Salvatore ci informa ci sono 13 gradi. 14 gradi a Sanremo. Scusate, c'è la dunata degli Ampini a Treviso e Peter Bescapè vuole sapere a Treviso quanti gradi ci sono. Si deve... fate anche una previsione su domani. Grazie. Ah, ecco, Sonego, siamo a Sonego di Fregona in provincia di Treviso. Ti va bene già? 7 gradi, 7 gradi. A dunata degli Alpini in preparazione. Ci fa sapere Danny, vedi? A Pescara 14 gradi sul mare. Un abbraccio a Roberto. Alla tangenziale est di Milano 15 gradi, siccome sulla ovest ce n'erano, sulla est 15 gradi. E invece a Ponte Ginori, provincia di Pisa, 10 gradi. Sarà, signori! Sarà l'aurora! L'aurora è qua con noi! Eccoci, buongiorno! La nostra Mila. Aurora Lussana, anche Benedetta poppa felice, come ci scrive... No, adesso la dorma. Adesso la dorma. Per sai tutti, che non apprezza più tanto. Traduciamo se... anche per gli amici di Soverato... Adesso dorme. Ah sì. Ah sì, sai, ci ascoltano. Non è come, non è come Radio Padania, ci ascoltano un po' in tutta Italia e in tutto il mondo. Bergamasco International, si capisce. Va bene. Dorme, dorme la nostra. La vuoi, vuoi svegliarla? No. No, si sveglia verso le 9:30 e mangia il frullato. Hai capito la... Sì. E poi dicono i bergamaschi si svegliano alle 5 e vanno a lavorare. La nostra Benedetta ha preso subito gli atteggiamenti di, non so, di qualcuna che... No, che... ma fa tardi. Altro che sera. Il magut. No, no, che ma la sera fa tardi, qua è questa educazione spartana, quindi la sera sta su con me, dobbiamo vedere porta a porta, dobbiamo vedere tutti gli speciali sulla legge elettorale. Eh no, scusa. Beh. Sì. Si prevede una vita felicissima per Benedetta. Eh no, voglio che sia una cittadina formata e competente. Sì. Benedetta Lussana in Molteni. Allora, insieme ad Aurora Lussana, voglio salutare Federico Novella, il nostro Fedez, il nostro Fedez. Allora come va? Bene, tutto a posto. Tu, anche te, quando incontro gli juventini, devo dire che... No, veramente, mi inchino e sono emozioni straordinarie quelle del triplete e quindi complimenti perché... Ricomincia il rito della gufata. Complimenti davvero, è un anno fantastico, è l'anno del triplete e vorrei provare io queste emozioni che voi quest'anno avete provato. Ma non ti è data questa soddisfazione, quindi ti devi accontentare di questi mezzucci scaramantici. Sì. Ma cosa si prova a vincere il triplete? È una cosa davvero... Te lo dico fra un po'. Vabbè. Allora, signori, dobbiamo aprire il Parlamento perché qui tra il caso Boschi. Se prendete un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Poi c'è il caso vero con cui aprono tutti i giornali, signori, e questo interessa gli italiani, il divorzio. Ma signori, ma mettiamo da parte la questione Boschi. Il divorzio. Cambia tutto, la Cassazione, deliberando tra l'altro nel caso di un ex ministro, Vittorio Grilli, che non voleva che venisse fatto il suo nome, quindi viene fatto sui giornali dappertutto, e la ex moglie, ha stabilito che non vale più il tenore di vita da considerare. Cioè, ma vi rendete conto Berlusconi che capriole di gioia starà facendo? Ma cosa stai ascoltando, Aurora? Scusami adesso, ma stai... Scusa, puoi spegnere Villa? Adesso Passito. Chi? No, sta ascoltando la registrazione di Passito. Porta a Porta. No? Oddio, Passito. No, ma che Passito? Ascolti te. Adesso Passito è la versione bergamasco di Despacito. Ma cos'è il falsito? Ma adesso fai silenzio, adesso falsito. Ah, ed è la cosa di passito. Passito, ma è bergamasco, ovviamente. Ma si può ascoltare qualcosa a un momento? Sì, sì, ce l'abbiamo trovata, è questa. Senti. Ti prego. Va, va! Oh, mamma. Dai che va! Oh. Sì, io passo i venerdì sera a tirarmi. Non ci posso credere. No, giuro, sei bergamasco, è spaziale. Beh, non è molto bergamasco fino a questo momento. No, ma poi c'è lui, che lei è una italiana nel locale. E poi c'è lo straniero, il bergamasco. E poi c'è lo straniero che ci prova con l'italiana. Senti qua. Ti prego. Tu non sai nemmeno che fortuna. No, ma scusa, ma vai. Va adesso, fastidio. Non ce l'hai il ritornello. Adesso non lo so. Adesso arriverà il ritornello. Vabbè, parliamo di cose. Parliamo di cose inutili fino al ritornello. Quando arriva il ritornello, ti prego, alzamelo. Parla pure della Boschi. Parliamo dai, di cose inutili. Esatto. Allora, dicevamo il divorzio. Sì. Pensa. Senti. Quante mai tu daccia tra sopra il bigo. Sfassito, tamma verso pala crapa dai fassito. A so che più è tappi fol memo. Ragazzi, è molto più chiara la versione in spagnolo. Per quel che mi riguarda, la versione in spagnolo è chiarissimo. È chiarissimo, esatto. Questa è, sta ascoltando Aurora Lussana questa mattina. Ok. 6:40, sottolineiamolo. No, vabbè, il divorzio. Intanto, perché siete così interessati, Federico? Perché sei così interessato? No, è un interesse. No, è una famiglia perfetta. Giornalistico, infatti. Assolutamente. Ma io qui vedremo le file di persone che corrono dall'avvocato. Non lo so. Sì. Qui si parla di una rivoluzione incredibile. No? Abbastanza, perché si potranno forse ricalcolare. C'è chi dice che sia retroattiva questa cosa, non è sicuro, però caso per caso potrebbe essere retroattiva. Però c'è anche chi dice, ecco, adesso c'è la vera parità. Infatti, matrimonio. Non ci saranno più questi mariti ridotti in povertà perché obbligati a versare l'assegno milionario alla moglie, no? Quindi adesso abbiamo raggiunto la vera parità tra i sessi. Insomma, la donna autosufficiente non ha diritto a un assegno in base al tenore di vita. Se lavora, cioè, Aurora, non la trovi una cosa sacrosanta? Di una cosa da donna. Allora, secondo il matrimonio è sacro ciò che Dio unisce, non è che l'uomo. Ho capito, ma a volte finisce. A volte finisce. Ecco, esatto. Chi non ha questa capacità di trascendere la nostra caducità umana, divorzia, no? Sì. Va bene. Malati. Quindi si assume tutte le responsabilità. Parassiti. Guarda che il divorzio ha dei costi sociali gravissimi. È certo che c'è. Va bene, quindi è una sorta di fallimento delle aziende. Ecco. Crea danni a tutti, a partire dai bimbi, poi insomma va bene, ho capito, ma ragazzi, non ci devi fare mai a Radio Maria, non è Radio Maria. Divorziare è un diritto, ma dovrebbe essere un dovere per tutti non arrivare al divorzio. Detto questo, si divorzia perché ormai è finito il sacro nella nostra contemporaneità e la gente, ecco, quindi allora io credo che, però, come forse lo dice oggi su qualche intervista la Buongiorno, però bisogna un po' tutelare anche tutte quelle donne che hanno dedicato interamente la loro esistenza alla famiglia. Ecco, quindi questo è vero. Adesso stiamo un po' attenti. No, ma infatti, cioè, se le donne hanno un altro lavoro e hanno un'autosufficienza in conto, no? Come siamo in Italia, c'ho sempre paura che si passi da quello che gli ha fatto Berlusca lì. Che voglio dire, eccola. Però diciamo che tendenzialmente ci sta, la parità è anche un po' questo. Va bene, la parità è anche un po' questa. Sì, c'è il rischio, giustamente. No, Federico dice, molte donne magari dedicano parte della loro vita uscendo dal mercato del lavoro alla famiglia, e poi dopo si ritrovano, no, non è così facile. No, ma quello va riconosciuto, cioè se il marito guadagna di più della donna perché si è dedicato alla carriera, perché la moglie glielo ha consentito, perché la moglie è rimasta ad accudire la famiglia, allora questa superiorità economica dell'uomo va riconosciuta, e poi in caso di divorzio l'uomo è giusto che paghi. Però al diverso è il caso di chi, diciamo, c'è anche il caso di chi si sposa per farsi mantenere a vita. Ecco, questo non va bene proprio perché, come dice Aurora, il matrimonio dovrebbe essere una cornice di sentimento, non è che ci si sposa per farsi mantenere, e non si può neanche restare sposati perché c'è il disincentivo economico, sì, capito? È vero. Perché c'è anche qualcuno, potete dirlo, ma è così, tantissimi, c'è anche qualcuno tantissimi, che vorrebbe divorziare ma non divorzia perché non vuole fallire economicamente. No, ma tantissimi, tantissimi, cioè figurati, è proprio accertato, chi ha amici lo sa, raddoppiano i prezzi, anche, raddoppiano i costi. Bravo, c'è anche una minoranza, con il divorzio, purtroppo, c'è anche una minoranza di donne che se ne approfitta, questo dobbiamo dirlo. Minoranza, ha detto minoranza, Aurora, ha detto minoranza. Nemiche delle donne stesse, nemiche delle donne stesse. Ha detto una minoranza, eh. No, va bene, va bene, ma se c'ho anche un po' di amiche che, voglio dire, hanno scelto quel percorso lì di vita, ma va bene, Cioè, tu le saluti lo stesso anche se sono divorziate, fallite, con, no, con lo stigma della vergogna in fronte, con la lettera scarlatta, tatuata, no, del fallimento, del divorzio. No, cioè, ma tu lo sai che, cioè, io bevi non... lo stesso un caffè con loro, sì, o le tieni, no, un po' schifata, no, così a, no, distanza prima che ti contagino? No, mi fanno anche più schifo le donne che sposano gli uomini per la loro capacità economica. Però c'è sempre stata questa cosa, no? Ma poi insomma, poi l'intelligenza sta anche, magari ci sono anche uomini che esibiscono il loro potere economico per quello, no? Quindi voglio dire, magari poi agli uomini piacciono anche queste donne che alla fine li scelgono per il loro potere economico. Come? Vabbè. Non lo so, io guardo altro negli uomini, lo sai, Milan. Cioè, che cosa guardi? Guardi la tessera di partito. Cosa guardi? Come tengono in mano la cazzuola? No, ha ragione. Come tengono in mano, come danno giù la calce per fare giù un muro? No, come mettono giù un muro a secco? Ma innanzitutto guardo se sono un buon partito, ma nel senso se votano quello giusto. E poi? No, e poi se sono maschi. Sei particolarmente curioso. Maschi veri? Dici un maschio vero, cara Aurora, cosa dovrebbe... Come giudichi un maschio vero? Il maschio che fa le cose da maschio, che fa quelle robe... No, ormai dicevo così. Io ormai ho preso il tanga al chiodo perché sono sposata da 2 anni, però in genere mi piacciono i maschi. Sul tanga al chiodo io andrei. No, infatti è partito. Vuoi approfondire? Tanga al chiodo mi fermerei. Però lì ero 2 anni e ormai Milan. Capito, ma hai già detto 7 volte ormai, no, legato al matrimonio, ormai. Un vero di rammarico. Ormai. Un lieve calo della tensione, come dire, ormonale. Ormai, 7 volte sul matrimonio, con tono sempre più... Rassegnato. Niente, su questo tanga il chiodo io andrei al traffico, perché è l'unica cosa che ci può risollevare. Risolleviamoci. Sì. Amore, ma che fai? Sai benissimo che a quest'ora io voglio solo il traffico. Macron con la Merkel non vi faranno regali, cari italiani. Vorrei dire a questo grillo, se Roma è una schifezza, è una latrina pubblica, perché, dice lui, è stata ereditata? Che cazzo vuol dire è stata ereditata? Sì, è stata ereditata, e allora vuoi pulirla? Ti vuoi alzare le maniche, il culo, e vai a pulire i gessi di Roma? Milan, andiamo a Cardiff! Ma quando mai sentirai più te suonare la musichetta della Champions? Ciao Alessandro Milan, the best! Allora, cominciamo, siamo sporchi. Diciamo che siamo sporchi anche noi, dai, su, abbia pazienza. L'ha detto lei? Sì, i romani siamo sporchi, noi romani siamo sporchi. Anche per... A Roma deve sapere che ci sono dei topi... Sì. Con la maglietta gialla che puliscono la città, perché la sindaco Raggi è talmente incapace, i topi si sono messi d'accordo tra di loro e puliscono la città. Notizie dall'estero, direbbe Aurora Lussana. Notizie dall'estero, una brevina in quinta pagina. Roma, città sporca. Nel suo mondo ideale, Federico Novella è questo, Aurora Lussana. Notizie fondamentalmente sì. Dal nostro corrispondente dall'estero. Notizie, no, Roma, città sporca. Va bene, torniamo. Cioè, Lombardo-Veneto sulla raccolta differenziata. Ma di la verità, quando senti Bruno Vespa è per quello che lo vedi. Noi romani siamo sporchi, ecco. Come ti ha fatto godere sta cosa? Ah, bravo, bravo. È una questione antropologica proprio. Sì, cioè, voglio dire, sai, ogni civiltà. Come sì? No, lei conferma. Cioè, cade in questo tranello così. Vabbè, me la passa così, ragazzo, devo segnare. Come fa? Ragazzi. No, però insomma, ogni civiltà ha la sua storia. Eccola lì, vedi, no, giusto per non rincarare. Si lavano solo sopra il po'. Sì, in Italia. Sì. Può essere. Vabbè, dai, no, lasciamo, derubrichiamo questa cosa di Roma. No, vi devo fare la domanda secca, perché della Boschi non abbiamo parlato, ma le polemiche ci sono. Dai, cosa deve fare Federico? Qui la questione è molto seria. Dovrebbe mollare, dovrebbe lasciare, dovrebbe tenere duro. Cosa dovrebbe fare la Boschi, secondo te? Abbiamo bisogno di un po' di trasparenza. E soprattutto io mi chiedo, ma dov'è finito il famoso Ghizzoni? Cioè, io penso che la prima persona che ha il dovere di parlare, cioè di dire se davvero ha incontrato la Boschi o qualcuno che rappresentava la Boschi, è quello di Unicredit, che deve, certo. Non è che se la può cavare così con il silenzio. Ma al momento pare passare questa linea, che viene ovviamente interpretata, non avendo smentito, pare che voglia dire, secondo questo linguaggio molto felpato, no, delle banche eccetera, che in qualche modo non smentisce quello che ha detto De Borto. E invece no, anche se sei un banchiere e non sei abituato a parlare chiaro, dovresti, hai il dovere di spiegare, di entrare proprio nel merito. Voglio sapere quando, se è successo qualcosa, come, in che giorni. Ma oddio, se è stato tirato in ballo però in un libro. Se lui dicesse una frase, no, non è vero, allora De Bortoli viene smentito e poi ce la prendiamo con De Bortoli. Ma lui non ha detto nulla, si sa soltanto per certo che lui, il presidente di Banca Etruria, l'ha incontrato. Sì. Ed è stato un incontro insolito, almeno così ho letto, il rituale. Allora, perché l'ha incontrato? In quale occasione? Cosa si sono detti? Questo dossier è stato effettivamente aperto? Sì, è stato aperto ed è stato chiuso. Vogliamo sapere se è stato aperto perché a lui gli è venuta l'idea di aprirlo o perché qualcuno gli ha messo la buccia in orecchio. Capito, Aurora? Non avrai nulla da aggiungere, lo so. No, ha ragione, il direttore. Però, direttore, l'abbiamo fatto direttore. Promosso sul campo. Scusa, Federico Novella per noi. Federico, non lo so, sei direttore a me. Non lo so, però adesso vai al lavoro, magari scopri che... Scopro che improvvisamente ho ricevuto i galloni. La Boschi, la potentissima Boschi, no, perché scusa, tu sai che ormai lei è la badante del nostro conte Camomillo, il nostro premier Gentiloni. Va bene. Scusami, ha un ruolo strategico, hai visto anche questa, questa circolare interministeriale di qualche giorno fa. Credo che fosse molto più credibile la Boschi nell'interpretazione della Madonna quando faceva presepe al suo paese, nel senso che non è, anche quando ieri fa la misura l'è colma. C'era un periodo in cui ce la imitavi, che bello quel periodo. Sì, io sai, non ho questa voce angelicata, non ho insomma l'espressione toscana, però ieri era nervosetta. Non è più credibile, a parte non era credibile neanche quando ho detto lascerò la politica se bocceranno le mie riforme. La Boschi, che voleva essere famosa non per le sue forme, ma per le sue riforme, è famosa per essere totalmente inattendibile, non è più credibile la ragazza. Splendida, bella come la Venere del Botticelli, dice giustamente il presidente. Però dice dovrebbe. Quello che non vorrei è che tutta la questione rimanesse così. che non si capisce bene come è andata a finire, perché non possiamo neanche condannare la Boschi sul fatto che, no, ma tra l'altro il primo è non più credibile il primo De Bortoli che dice confermo tutto, è il primo a dire ma secondo me non dovrebbe dimettersi, cioè è stato un interessamento e quindi non è una cosa così grave, ma secondo me lei dovrebbe stare lì fino alla fine della legislatura, perché mancando di credibilità fatto gioco vabbè, ti mandiamo com'è che era Adesfasito. Ringrazio molto Aurora Lussana e Federico Novella che troviamo al TG4, non da direttore, ma tra poco sì, adesso tempo di arrivare in redazione, lo scoprirà, è stato promosso qui sul campo dalla nostra Aurora. Un abbraccio anche a Benedetta, vai! Con un dito nel caso in Bergamasco non hai comprendito. È passato il colt al dighe, Gabres de bisono lite. Adesfasito. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. Bene. Da quelle parti a Treviso è tutto pronto per la dunata degli alpini. È il nostro Peter Bescapea qua, la penna nera sta per partire. Quanti giorni ci lascerai per smaltire? Poi rientri martedì, ovviamente, perché c'è un giorno di recupero, forma dopo... Vabbè, si sa, ecco, ecco, diciamo, berrai quelle due, tre dita di vino, no? Giusto. Va bene, tranquilli, è tutto a posto, martedì ve lo riportiamo qui Peter Bescapè, insieme a Lorenzo Nespoli in redazione, la nostra Elisabetta Fusconi. Siamo tutti pronti, allora andiamo a leggere i giornali in questo che è lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino, andiamo! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a giovedì 11 maggio, le aperture intanto, il Sole 24 Ore apre sul Jobs Act per partite IVA e professionisti, malattia, figli, pagamenti, più tutele per gli autonomi, questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda del divorzio, che anche sul Sole è in prima pagina e che approfondiremo subito, è l'apertura per molti quotidiani, questa decisione della Cassazione, che tra l'altro riguarda una coppia famosa, almeno per quel che riguarda lui, ex ministro Vittorio Grilli, svolta sul divorzio, assegni slegati dal tenore di vita. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Per la stampa, addio divorzio all'italiana. Questo è il titolo principale. Il Giorno, divorzio, assegno leggero. Per il giornale, mai più divorzi rapina, rivoluzione sull'assegno. E divorzio, svolta sull'assegno è l'apertura anche del Secolo XIX. Come vedete, molti giornali aprono su questo. Repubblica invece in prima pagina un'intervista al ministro delle finanze tedesco Schäuble. Così Francia e Germania cambieranno l'Unione Europea. E poi il caso Boschi. Boschi in fiamme, titola Libero. Boschi mente, ecco le prove, titola Il Fatto Quotidiano. Mentre La Verità, sottosegretario indifendibile, Renzi, che fai? La cacci? Nessuna smentita De Bortoli, Maria Elena Boschi tramò su Banca Etruria e non può più stare al governo, questo titola La Verità. Invece questa terribile vicenda di cronaca con tre ragazzine, una ragazza e due bambine, rom arse vive per la faida, questo è il titolo del Messaggero, bimbe arse vive per la faida rom, e il Manifesto, vite bruciate, il titolo di prima pagina. Avvenire invece sceglie Russia Gate, Trump scatena la tempesta, dunque gli Stati Uniti, il licenziamento del capo dell'FBI da parte del presidente americano. Ma il divorzio, per l'appunto, beh, intanto tutti i dettagli su questa sentenza da Patrizia Maciocchi sul Sole 24 Ore, la prima pagina, enorme tributi, così spoileriamo Mauro Meazza oggi. Patrizia Maciocchi racconta di questa sentenza: il tenore di vita durante il matrimonio non vale più come parametro per quantificare l'assegno di divorzio. Prendete nota, prendete nota. Lo so che avete fermato le macchine, aspetta, state mettendo giù le telefonate, aspetta che stanno dicendo una cosa importante alla radio, milioni di italiani. In considerazione della natura assistenziale dell'assegno, il giudice dovrà ora seguire i criteri dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. La Corte di Cassazione, con la sentenza 11504, che riguarda un ex ministro e un'imprenditrice, non li cita Il Sole, ma su tutti i giornali sono citati, archivia un principio rimasto in voga per 27 anni, considerandolo non più attuale, e manda in soffitta anche l'idea del matrimonio come rendita di posizione da far valere in eterno. Il principio, dettato a un tempo, basato sul tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o legittimamente fondato sulle aspettative maturate nel corso delle nozze e fissate al momento del divorzio, era il frutto di un compromesso. Ora non vale più, secondo questa sentenza. E Franca De Ponti e Giorgio Vaccaro raccontano, sempre sul Sole, che partono le battaglie per aggiornare i vecchi accordi patrimoniali. Ecco, prendete, non lo so, già molti mariti che stanno sbrandando gli avvocati. Scusi, ho sentito che non vale più il tenore di vita, dobbiamo rivederci per sistemare tutti i pregressi. Succederà un po' così, almeno secondo Anna Maria Bernardini De Pace su Libero. Dice: adesso ci saranno moltissimi che chiederanno anche legittimamente di dire: vedete, c'è una sentenza della Cassazione, dobbiamo rivedere tutti gli accordi presi con la mia ex moglie, con il mio ex marito. La vicenda riguarda appunto Vittorio Grilli e Lisa Lovenstein, insieme nel 2005 ritratti per esempio sul Corriere della Sera, che racconta con Giovanna Cavalli un po' questa anche guerra dei Roses che li ha portati a litigare fino in tribunale. Quando si sono conosciuti a Rochester, Lago Ontario, stato di New York, scrive Giovanna Cavalli sul Corriere della Sera, pagina 5, lui, studente milanese, Laura Labocconi, un solido patrimonio familiare, era lì per prendere il suo bravo PhD negli States, e lei è una ricercatrice molto bella, molto vistosa. Quasi 30 anni dopo, appena finito di battersi in Cassazione per una causa di divorzio che farà storia e giurisprudenza. Beh, già nel 2004 lei, Lisa Lovenstein, diede un colpo basso al marito Vittorio Grilli. In un'intervista al Sole 24 Ore raccontò che la bella vita ai Parioli da 310 metri quadri, la villa, 14 stanze, 5 bagni, piscina con fontane, nuoto controcorrente, comprata nel 2004 per poco più di €1 milione, suo marito l'aveva pagata in parte con denaro proveniente da un conto offshore. Le smentite, le lotte, gli avvocati di lui che dicono le abbiamo già dato €2 milioni, gli avvocati di lei che dicono si lamentano di aver accettato una liquidazione da €500.000, insomma le classiche liti coniugali con cifre non indifferenti. E poi la sentenza ora, e il Corriere tra l'altro riepiloga tutti i grandi versamenti, non so, Berlusconi, dai, questo è quello che avete in mente tutti, €1.600.000 al mese a Veronica Lario, Gigi D'Alessio €15.000 al mese a Carmela Barbato, Andrea Pirlo il calciatore €55.000 al mese a Deborah Roversi, Pippo Baudo €12.000 al mese a Katia Ricciarelli, Giorgio Falk €20 milioni di vecchie lire, a Rosanna Schiaffino, Umberto Marzotto €33 milioni di vecchie lire a Marta Marzotto. Potranno essere ricalcolati, ma poi questi sono i famosi, in realtà potranno essere ricalcolati quelli di milioni di italiani? Staremo a vedere. Intanto, proprio oggi sui giornali finisce la vicenda anche di Barbara D'Urso, che ha avuto ragione dal tribunale: non dovrà più pagare all'ex marito Michele Carfora l'assegno di divorzio riconosciuto in primo grado dal tribunale di Roma, perché era stata denunciata penalmente all'ex marito, ma ha vinto la causa secondo la Corte in appello. Oggi deve essere definitivamente esonerata dall'obbligo di versare l'assegno, perché l'ex coniuge, formando una nuova famiglia dalla quale è nata anche una figlia, ha determinato il venire meno dell'obbligo di solidarietà post coniugale. E dunque anche Barbara D'Urso ce l'ha fatta. Vabbè, prendete nota, chiamate gli avvocati, forse c'è da rivedere tutti i vostri assegni, chi lo sa. Intanto, cari ascoltatori, sulla vicenda delle ONG che affronteremo ancora, c'è ancora, ci sono molti articoli, ONG, i salvataggi dei migranti in mare. Vi segnalo, a pagina 4 della Stampa c'è un'intervista al capo di Frontex, si chiama Fabrice Leggeri, è il direttore di Frontex, è francese, viene intervistato da Marco Bresolin. E lui dice: non abbiamo alcun elemento per dire che da parte che ci siano presunti finanziamenti all'ONG da parte del racket. Non abbiamo elementi. Da parte nostra nessuna informazione di questo tipo è stata trasmessa alle procure. Ma certo, dice Fabrice Leggeri, alcuni presentano le cose in modo romantico e idealista, ma purtroppo la realtà è crudele. Non c'è nulla di romantico in quel che succede nel Mediterraneo. Il numero di mezzi in mare non è mai stato così alto e purtroppo dal 2016 non abbiamo mai avuto così tante vittime. Serve dunque una presa di coscienza. Noi interroghiamo i migranti negli hotspot, dice il direttore di Frontex. Alcuni ci hanno indicato il numero che dovevano chiamare e corrispondeva ad alcune ONG. Ma non posso dire come lo hanno avuto, lo potranno stabilire solo gli organi giudiziari. Non lo posso dire perché noi non lo sappiamo. Non abbiamo il mandato per condurre indagini, noi raccogliamo solo informazioni e facciamo analisi del rischio. In tutto questo, a Trapani, le accuse dell'inchiesta, quindi parallela a quella di Zuccaro a Catania, ora a Trapani si viene a sapere che alcuni degli indagati sono dell'ONG Medici Senza Frontiere. Indagati in Medici Senza Frontiere dissero ai migranti: non collaborate. Fiorenza Sarzanini, pagina 21 del Corriere della Sera. Alcuni membri dell'equipaggio di una nave di Medici Senza Frontiere avrebbero soccorso migranti senza avvisare la Guardia Costiera Italiana e poi avrebbero convinto gli stranieri a non rispondere alle domande della polizia nel cosiddetto debriefing che avviene dopo lo sbarco. Per questo sono indagati ora per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La conferma arriva dal procuratore di Trapani, Ambrogio Cartosio, che pur senza mai citare il nome della ONG, in un'audizione alla Commissione Difesa del Senato afferma: abbiamo indagini che coinvolgono non le ONG come tali, ma persone fisiche appartenenti all'ONG, cioè alcuni delle ONG. Però vedete, titolo di Avvenire: la procura di Trapani salva le ONG, indagini solo su singoli membri, le organizzazioni invece tutelano vite. Ma la polemica continua. Se vogliamo invece rimaniamo all'estero con la notizia che mi fa più sorre della giornata e ci porta in Argentina, ma la riporta Repubblica, pagina 18. Libertà per l'angelo della morte. L'Argentina si ribella ai giudici. C'è una sentenza della Corte Suprema in Argentina che riesuma una legge che di fatto riduce le condanne per i crimini della dittatura durante Videla. E così, in base a questa legge molto tecnica che non vi sto a spiegare, ma è spiegata bene su Repubblica da Alessandro Oppes a pagina 18, c'è la concreta possibilità che 250 tra assassini e torturatori dell'epoca di Videla in Argentina possano uscire dal carcere. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan, la chiappa notizie dell'informazione. Evviva! Allora, cari ascoltatori, dobbiamo parlare del caso politico del giorno. Da due giorni è il caso del libro, il libro Poteri forti o quasi di Ferruccio De Bortoli, che in un passaggio tira in causa e chiama in causa il ministro Maria Elena Boschi, quando in un passaggio di questo libro si racconta, a pagina 209, di un interessamento da parte di Maria Elena Boschi presso Unicredit per cercare di salvare Banca Etruria, quella Banca Etruria nella quale il padre della Boschi è stato vicepresidente. Da allora apriti cielo, le polemiche. Ieri c'è stata la presentazione, prima presentazione ufficiale del libro di De Bortoli, con lui che conferma tutto. Questo è il titolo di pagina 9 del Corriere della Sera. Sono sicuro delle mie fonti, sono assolutamente tranquillo, sono un collezionista di querele e spero che quello di Boschi non sia solo un annuncio, cioè l'annuncio di querela, ma a fianco, nella pagina 8, si racconta che non dovrebbe essere proprio solo un annuncio quello di Maria Elena Boschi, che anzi attacca, dice la misura è colma e da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali. Chiede l'aiuto e il supporto politico del premier Gentiloni in un colloquio avuto ieri mattina e Gentiloni le dà il sostegno. Gli dà il sostegno, come l'ex ministro anche trova il sostegno in Matteo Renzi, convinto della sua trasparenza. E dunque è diventato uno scontro politico con l'opposizione, il Movimento 5 Stelle che dice Boschi si dimetta. Ora, le ricostruzioni. Le ricostruzioni, beh, il Fatto Quotidiano che oggi titola in prima pagina Boschi mente, ecco le prove. Il Fatto Quotidiano dedica due pagine, pagina 2 e 3, a questo. Unicredit, Ghizzoni affidò il dossier alla top manager. Sono Stefano Feltri e Carlo Tecce che a pagina 3 ricostruiscono questa vicenda che darebbe ragione a De Bortoli, almeno per come è scritta sul Fatto Quotidiano. Federico Ghizzoni, come tutti i principali banchieri italiani, scrivono Feltri e Tecce, non può permettersi di avere cattivi rapporti col governo e tutti sapevano nel 2015 come oggi che inimicarsi la Boschi avrebbe determinato un'immediata freddezza anche da parte dell'ex presidente del Consiglio e segretario del PD Renzi. Il banchiere dunque non risponde alla Boschi con un diniego secco, come pure avrebbe potuto, considerate le esigenze di rafforzamento patrimoniale di Unicredit, ma affida, prendendo tempo, il dossier a Marina Natale, una delle figure apicali della banca. La dirigente lombarda ha scalato le posizioni arrivando a ricoprire una delle posizioni più alte durante la gestione di Alessandro Profumo, che la promosse capo della finanza. Era vicinissima a Profumo, poi con Ghizzoni è diventata vice direttore generale, responsabile per le strategie, e nel settembre 2016 ha lasciato Unicredit e oggi siede nel CDA di Mediobanca ed è presidente della Fiera di Milano. È lei a prendere in mano il dossier, scrive il Fatto Quotidiano, sul possibile intervento a favore di quella che già nel febbraio 2015 era una banca decotta, cioè Etruria. L'istruttoria si chiude nell'unico modo sensato, con Ghizzoni che respinge le indicazioni della Boschi, forte delle analisi di Marina Natale. Banca Italia poi commissaria Etruria. A novembre 2015 il governo Renzi ne ha imposto la risoluzione con un decreto i cui contenuti erano stati elaborati da Banca Italia. Dunque questa è la ricostruzione, anche con tanto di nomi, il Fatto Quotidiano, di chi avrebbe all'interno di Unicredit esaminato proprio il dossier Etruria. Tra l'altro Ghizzoni invece è da ieri chiuso in silenzio, secondo i giornali, Repubblica, almeno la legge così, il silenzio di Ghizzoni, l'unico che potrebbe, visto che è tirato in ballo, dire ha ragione De Bortoli oppure ha torto De Bortoli, lui è in silenzio e questo silenzio viene letto da Repubblica come una non smentita. Ghizzoni non smentisce. E niente, e che dobbiamo fare? C'è la polemica politica, c'è, secondo Andrea Carugati sulla Stampa, pagina 6, la posizione di Maria Elena Boschi che dice si dovranno scusare di queste accuse, ma il direttore De Bortoli conferma, appunto, sono sicuro delle fonti, e la vicenda è ampiamente sui giornali, secondo sempre un retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica. Lo sfogo di Maria Elena Boschi sarebbe stato questo: il tentativo di circondarmi mi sembra chiaro, l'obiettivo finale anche è il governo e Matteo Renzi, i due bersagli sono questi. Vedremo ora i riflessi politici. Certo, se si salta sulla verità a pagina 5, c'è un'altra vicenda che in questo momento non porta molta acqua al mulino di Mariangela Boschi. A rischio gli atti del fedelissimo fuori ruolo. È una vicenda un po' più complicata, come quando si riguarda la burocrazia, i mandarini, le personalità, insomma, dei ministeri. In questo caso è la storia di Paolo Aquilanti, che è esperto legislativo della Boschi. A febbraio è stato nominato al Consiglio di Stato, da lì si è fatto distaccare a Palazzo Chigi, dove ora è segretario generale, ma secondo un'interpretazione della legge dovevano passare almeno 4 anni prima di assumere questo incarico, e dunque la domanda è: le sue nomine sono illegittime? E La Verità con Francesco Bonazzi cerca di ricostruire tutta la vicenda di Paolo Aquilanti, e una vicenda che La Verità stessa dice è tutt'altro che semplice, è molto complicata, ma che potrebbe portare alla decadenza addirittura, o comunque del considerare illegittime tutte le nomine firmate dall'esperto legislativo segretario generale di Palazzo Chigi, se si dovesse accertare che è stato messo in quella posizione senza avere rispettato tutte le leggi. Ragazzi, è tutto un ginepraio di norme, codicilli, direi di norme e tributi. No, Mauro Meazza? Ma certamente, caro Alessandro, buongiorno. Hai accompagnato l'ex presidente alla stazione ieri mattina? Sì. Infatti. Tu hai capito, ho dovuto mantenere un profilo basso per accompagnare Barak alla stazione centrale di Milano. È partito, tutto a posto. Tutto a posto, gli hai dato anche magari un qualcosa da mangiare durante il viaggio? Sì, è chiaro, il panino, la mela, la mela tagliata già a spicchi. Benissimo, tutto a posto. Anche una bottiglietta, se magari gli venisse sete, eccetera. Allora, senti, siccome evochi norme e tributi, fai bene perché sempre devi leggerle religiosamente. Ovvio. Ti voglio segnalare proprio la prima pagina di oggi, naturalmente non poteva essere altrimenti dedicata alla sentenza della Cassazione sull'assegno divorzile. È molto importante, tra l'altro anche può avere un riflesso, ma lo spieghiamo appunto oggi nella prima pagina di tributi, anche per assegni già determinati. Sì. L'ho ben spoilerata inizio rassegna stampa. Ma lo immagino bene, perché la questione è abbastanza importante e universale. Non ti sarà sfuggito invece il Jobs Act degli autonomi, che finalmente ha trovato una sua approvazione, e quindi cambieranno rapidamente tutta una serie di regole e garanzie. Tra l'altro, questa notizia dell'approvazione definitiva arriva proprio nel giorno in cui ci avvisano dall'Europa che la disoccupazione, lo dice Draghi, non sta al 9-11%, ma al 18% in Europa, perché devi contare anche i sottooccupati e i precari. Quindi, insomma, l'occupazione europea va meno bene di quello che sembra. Questo è il senso, tutto spiegato, naturalmente, come sempre, sul Sole 24 Ore. Poi oggi è giovedì, giusto, Alessandro? Sì, oggi è giovedì. Oh, molto bene. Allora, sappi che come ogni giovedì c'è Casa 24. Casa 24 che ti informa sulla ripresa del non residenziale. Capannoni, uffici e cose di questo tipo. Leggi su Casa 24. Stai comprando un capannone? Dimenticavo di dirti, tra l'altro, della sentenza di divorzio, so che si occuperà anche l'ottimo Nicoletti più tardi, verso mezzogiorno, esatto. Giusto? Ecco, perché l'ho visto, sai dove? Su Norme e Tributi. Ma dai, anch'io l'ho visto. Norme e Tributi è una miniera di notizie. Tra l'altro, ti voglio segnalare che si sta pensando anche a una web tax italiana che potrebbe anticipare, diciamo, altre iniziative sovranazionali. Questa sarebbe particolarmente gradita perché eviteremmo di ridurre l'ACE. Sai cos'è l'ACE? Come no? Buono. D'accordo, è l'incentivo per la capitalizzazione delle imprese. C'è una stretta nella manovrina, ma forse se mettiamo la web tax la stretta non c'è più. Bisogna ragionare sulla stabile organizzazione virtuale. Voglio concludere con una notizia, direi buona. Ci saranno assunzioni per 52.000 professori nel prossimo anno scolastico. 52.000 professori che tra quelli che vanno a sostituire chi va in pensione, stabilizzazioni ed altro. È tutto spiegato naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi. E quindi, tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, il cugino rosicone di Alessandro Juve. E va bene, sono partite, ma c'era la migliore, adesso non ce l'hai pronta lì, caro Peter Bescapè, la prima, diciamo, non si dovrebbe dire il peccato originale, ma il frutto buono, originale di questa serie di siglette dedicate al calcio. Ce n'è una che era straordinaria, va bene, insomma, quando se la recupereremo domani, che è questa, Alessandro Juve, il cugino cleptomane di Alessandro Milan. Ecco, da qui nacque tutto. E come al solito, è come la questione della settimana in mistica, le imitazioni non vengono con la stessa qualità, con la stessa intensità dell'originale. Va bene, comunque dobbiamo parlare di questa notizia di cronaca invece terribile, che è l'apertura per esempio del Messaggero, visto che è successo a Roma, e cioè l'orrore, non ci sono altre parole per raccontare l'attentato nei confronti di una famiglia rom. Si indaga nell'ambito delle faide tra famiglie rom, attentato che ha portato all'uccisione di tre ragazze, o meglio una ragazza di 20 anni e due bambine di 4 e 8 anni, arse vive perché dormivano nel camper, e c'è un filmato della Digos di un uomo che butta una Molotov sotto il loro camper, da lì l'incendio e la morte in condizioni terribili. Intanto la cronaca: Molotov sul camper dei rom, muoiono bruciate tre sorelle. A Roma, leggo dal Messaggero a pagina 2, le fiamme alte, flebili grida di aiuto, poi il silenzio, l'intento di fare una strage è riuscito. Resta una carcassa che sembra un teschio, resti di un triciclo, una palla, un paio di scarpe da ginnastica. Tre sorelle di una famiglia rom, gli Alilovic, sono morte la notte scorsa mentre erano accucciate al piano alto della cuccetta del camper in cui dormivano in 13. Francesca e Angelica, di 10 e 4 anni, e la più grande, Elisabeth, 20 anni, che ha cercato di forzare la porta del furgone avvolto dalle fiamme, morte per mano di un uomo, c'è un filmato della Digos appunto, che ha gettato una bottiglia incendiaria sotto il furgone ed è fuggito. È accaduto alle 3:20 di ieri mattina a Centocelle, parcheggio del centro commerciale Primavera. Nel camper c'erano la mamma, Mela, il padre, Romano, e 11 figli, l'ultimo nato nel 2016. Gli altri sono riusciti a salvarsi prima che il fuoco impedisse ogni intervento. Intanto qualcuno chiamava i soccorsi, altri riprendevano la scena con il telefonino dai terrazzi davanti. Questa, diciamo, la cronaca. Ovviamente poi ci sono i commenti che si dividono tra, ovviamente, la pietà per queste tre persone che sono state uccise così, ma anche l'odio, racconta Repubblica con Maria Novella De Luca, pagina 11. A Centocelle va in scena la convivenza impossibile. C'è anche chi dice: hanno fatto bene a fare questo attentato terribile. E c'è chi racconta la impossibile convivenza: rubano tutto, sporcano, non si vive più con loro, se ne devono andare. Insomma, i classici refrain che ci sono quando si racconta di questo tipo di rapporto difficile molto spesso tra italiani e rom. E comunque trovate molto di cronaca sui giornali su questo. Se volete invece concentrarvi sul gioco d'azzardo legalizzato, c'è una pagina della Stampa che vi segnalo: no alle slot troppo vicine alle scuole. Cosa succede? Gabriele Martini racconta che sembrava fatta, ma da un anno va avanti questo braccio di ferro tra gli enti locali, soprattutto le regioni, e il governo, per cercare di normare dove vanno messe le slot machine, diciamo così, chiamiamole, cioè tutti quei meccanismi, tutti quei giochini nei bar che attraggono anche le poveracce, insomma, che si svenano per questi tipi di macchinette. Le regioni bloccano il piano sull'azzardo, riduce le distanze minime dai luoghi sensibili. Il governo dice 30% di macchinette in meno, questo è l'obiettivo, il via libera dei sindaci, le associazioni che insorgono. Insomma, il tema è raccontato dalla Stampa e riassunto a pagina 9. Lo faccio vedere anche in diretta video sulla mia pagina Facebook in questo momento. Vabbè, Gli esteri invece sono catalizzati dalla decisione di Trump di cacciare James Comey, capo dell'FBI, tutti a chiedersi quali siano i motivi dietro a questa cacciata. Trump ha semplicemente detto ai giornalisti: mi ringrazierete tutti, visto che non stava facendo un buon lavoro. Molto semplice, insomma. Lui sapete che è così, abbastanza tranchant nelle sue dichiarazioni. Comunque Donald Trump ha cacciato il capo dell'FBI e tutti i giornali cercano di capire che cosa ci sia dietro questa mossa. Va bene, siamo sulla carta costa, l'articolo più inutile scovato dai giornali, sui giornali. Siamo a pagina 17, dove c'è un'intervista ad Albano, signori. Albano che dice: non mollo, adesso vado da Putin e poi farò un duetto con Mina. Ma chi se ne frega?